Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia e, come già annunciato ieri, come ogni anno, siamo in diretta dal Lago di Como, dal workshop Ambrosetti a Cernobbio, dove questa mattina, lo dico subito, già ve l'hanno ricordato i nostri GR, sono intervenuti sia il Presidente del Consiglio Matteo Renzi che il Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan. Chiaramente si è parlato anche di temi di carattere politico, soprattutto il Presidente del Consiglio sul referendum, ma anche, visto che era la giornata ed è la giornata del dato definitivo sul PIL, anche dell'andamento della nostra economia. Il dato sul PIL, immagino che molti di voi già lo sappiano, è stato deludente, o meglio, ha confermato quanto già anticipato in prima lettura, come si dice in gergo, il 12 di agosto, crescita zero nel secondo trimestre. Nonostante, e ne parleremo, le indiscrezioni di due giorni fa in cui il Ministero dell'Economia aveva fatto sapere che probabilmente, che forse c'era la possibilità che il PIL facesse 0,1 e non 0 grazie alla componente servizi. Così non è stato, la variazione è appunto nulla, e questo fa rivedere tutte le stime sull'intero anno. C'è una revisione paradossalmente leggermente al rialzo sull'andamento dell'anno, 0,8 contro lo 0,7 indicato al 12 agosto, perché la crescita acquisita sul 2016 è comunque migliorata a un più 0,7% contro lo 0,6. Stiamo però ragionando di decimali, di prefissi telefonici, che chiaramente non bastano e non possono essere soddisfacenti. Va detto che all'interno del dato sul PIL vanno bene il settore agricoltura e il settore servizi, male invece il settore industria, meno 0,6%, il valore aggiunto dell'agricoltura aumenta dello 0,5, quello dei servizi dello 0,2 e quello dell'industria invece meno 0,6%, i consumi si sono fermati e gli investimenti sono in calo. Le famiglie resistono, dice l'Istat, fotografando questi dati. I consumi nazionali hanno fatto sostanzialmente più 0,1, quelli delle famiglie meno 0,3, la spesa della pubblica amministrazione, e la componente complessiva quindi è di sostanziale stagnazione. La domanda nazionale ha infatti, precisa l'Istat, ha sottratto 0,1 punti percentuali alla variazione del PIL. Insomma, il Presidente del Consiglio ha detto che il 2016 si chiuderà meglio del 2015, ma che non basta. Insomma, la cosa certa è che la crescita è deludente e che non c'è stata nessuna novità in questo dato in seconda lettura. Ne parleremo con vari ospiti presenti in questa prima giornata di lavori. Oggi, per quello che riguarda il workshop Ambrosetti, era la giornata al di là dell'intervento del Ministro dell'Economia e del Premier Matteo Renzi, che poi sono partiti per il G20 che si terrà appunto in Cina. Si parla molto di temi di carattere internazionale, medio orientale, poi domani soprattutto l'Europa, vi sarà il commissario per l'euro Valdis Dombrovskis, ma anche il presidente del gruppo Rohan Dijsselbloem. Si parlerà di casi, dei temi della migrazione e dei migranti, e quindi per la partecipazione del ministro dell'interno Angelino Alfano è stata confermata, della situazione turca e anche dei casi positivi, virtuosi all'interno dell'Unione Europea di Irlanda e Polonia. Poi domenica invece giornata, come di consueto, tutta dedicata all'Italia. Ben 5 ministri del governo saranno qui presenti: Orlando, Poletti, Giannini, Boschi e Calenda, ma anche il numero uno della Confindustria Vincenzo Boccia, la segretaria della CGIL Susanna Camusso e sempre in tema di politica anche il segretario della Lega Nord Matteo Salvini. Puntata oggi quasi monografica. Chi mi sta chiedendo giustamente quando torna la classifica, la poco invidiabile classifica del venerdì, torna venerdì prossimo. Oggi, proprio perché siamo in esterna al workshop Ambrosetti, il programma ritorna alla sua configurazione normale, cioè terminerà alle 18.30. Da lunedì tutto il palinsesto della radio torna alla sua configurazione pressoché normale, quasi tutto, e quindi anche Focus Economia terminerà alle 18.30. 349-238-6666 per sms e whatsapp, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, andiamo sulle altre notizie. Dicevamo, mentre il petrolio oggi in leggero rafforzamento a $44 al barile più 2%, sempre in tema di petrolio, si è saputo oggi che l'incontro cruciale tra la Russia e l'OPEC si terrà a Vienna il 24 ottobre prossimo. Putin ha detto nel frattempo che non esclude che si possa andare verso un consolidamento di un gruppo di paesi con uguali livelli di sviluppo e di conseguenza anche il rafforzamento dell'euro. Ha sottolineato che la Russia mantiene il 40% delle sue riserve valutarie in euro e non il resto, immagino, saranno dollari, yen e quant'altro. Per quello che riguarda l'economia internazionale, invece, gli Stati Uniti oggi hanno diffuso il dato su un'economia americana che ha creato 151.000 posti di lavoro e la disoccupazione resta al 4,9%. Fronte internazionale vuol dire anche la vicenda Apple l'accusa mossa da Bruxelles all'Irlanda di aver dato aiuti di Stato, per cui chiede all'Irlanda di farsi dare 13 miliardi di tasse non pagate dalla Apple. Si parlerà anche dell'elusione fiscale nel G20 in Cina, lo ha confermato il presidente americano Barack Obama, che guiderà proprio un tavolo di discussione sull'elusione fiscale. E in realtà la Commissione europea ha chiesto all'Apple di ritornare l'equivalente di 14 miliardi e mezzo di dollari. E l'Irlanda, a proposito di questa vicenda, farà appello contro la decisione dell'Unione Europea. È intervenuto di nuovo anche il commissario, quello che ha, diciamo, di fatto creato l'accusa nei confronti dell'Irlanda, e mi riferisco al commissario europeo alla concorrenza Margrethe Vestager, la quale ha detto: non voglio rendere la vita difficile alle imprese responsabili che pagano la loro giusta quota di tasse, ma al contrario voglio assicurarmi che tutti abbiano una possibilità uguale di successo sul mercato, ma senza aiuti di Stato illeciti in forma di agevolazioni fiscali, come è stato il caso di alcuni tax rulings, di accordi tra paese e singolo gruppo, riferimento all'Apple, ma non è solo, perché si parla anche di Olanda, Starbucks, la Fiat in Lussemburgo. Non c'è solo la vicenda, diciamo, della web taxation e di Apple. E devo dire che il mondo dell'information technology, come anche qui già ricordato nei nostri GR, non se la sta passando bene, ma in questo caso il problema è proprio di prodotto. La Samsung ha bloccato la vendita di Galaxy Note 7 dopo che in 35 casi è esplosa la batteria, che è un dettaglio, ma insomma, mica tanto. Casi di esplosione della batteria durante la ricarica, quindi ha confermato che la Samsung ha confermato che sono 35 casi di esplosione. L'annuncio arriva chiaramente a 2 settimane dal lancio del nuovo Samsung Galaxy Note 7, già venduto 1 milione di pezzi. Allora, andiamo subito al primo tema, quindi PIL, economia italiana, dichiarazione del Presidente del Consiglio questa mattina e del Ministro all'Economia. Do prima però l'aggiornamento di borsa, giustamente oggi Milano è positiva dell'1,30% in questo momento, meglio fa Parigi più 2%, Francoforte più 1,30%, Londra più 2%, Dow Jones mezzo punto percentuale, euro su dollaro a quota 1,11%. Il Banco Popolare guadagna il 2,40, Azimut il 2,40, Mediaset il 2,20, Mediobanca il 2%, Eni il 1,90, Unipolsai il 1,80, Pop Milano 1,70 come Exor, Ferragamo 1,60, Tenaris 1,5 come CNH Industrial, Mediolanum 1,40 come Recordati, l'1,20 lo guadagna Prismian e Hughes Net-a-Porter. Fronte opposto è Steam Microelectronics meno 2,90, Fiat meno 1%, Fineco Bank meno 0,50%. Allora, partiamo con il PIL e le dichiarazioni sul PIL del Presidente del Consiglio e del Ministro all'Economia. Il dato l'abbiamo ampiamente ricordato: bene agricoltura e servizi, male industria e soprattutto al palo i consumi, più 0,1 quelle di famiglie, meno 0,3 la spesa della pubblica amministrazione. Il Presidente del Consiglio Renzi ha detto il 2016 comunque si chiuderà meglio del 2015, ma non basta. L'Italia prosegue una lunga marcia. Il 2016 si chiuderà meglio del 2015, che si è chiuso meglio del 2014, che si è chiuso meglio del 2013, che si è chiuso meglio del 2012. Questo è un dato di fatto inoppugnabile, che anche i dati di oggi confermano, con la crescita acquisita nel primo semestre dello 0,7. Dopodiché non ho bisogno di nessun sondaggio per dire che questo meglio non basta. Andare meglio non significa andare bene. Andare meglio significa che la caduta che l'Italia ha avuto, in particolar modo negli anni della recessione, è una caduta che ha visto il ciclista rialzarsi e tornare in gruppo. Ma siamo ancora alla fine del gruppo, non siamo alla testa del plotone, non siamo quelli che possono fare meglio degli altri per il momento. È un esempio molto ripreso quello usato dal Presidente del Consiglio del ciclismo, del gruppo dei ciclisti. Renzi poi ha aggiunto, sempre questa mattina qui da Cernobbio e dal workshop Ambrosetti, che il deficit è il più basso degli ultimi 10 anni, continuerà a scendere, non perché ce lo chiede l'Unione Europea, ma perché ce lo chiedono i nostri figli. Se l'Italia avesse già un deficit al 5% avrebbe 50 e 55 miliardi da spendere in più. E ancora, in Italia l'unica parola d'ordine è ridurre le tasse, quindi conferma Renzi in maniera diretta che l'obiettivo è quello di arrivare in manovra fiscale, in manovra finanziaria, alla riduzione delle tasse, vedremo come e di che entità. E poi, per quello che riguarda invece la vicenda del Monte dei Paschi di Siena, ha detto: io non c'entro, il ruolo non è mio, ma mi auguro che l'aumento di capitale del Monte dei Paschi di Siena avvenga entro l'anno. La cosa pubblica, i politici hanno, la cosa pubblica direi i politici, hanno pensato di poter continuare nella gestione delle banche, mentre il resto d'Europa si andava a indirizzare verso un modello diverso, più serio. Ogni riferimento ad alcune banche, dal Monte dei Paschi di Siena alle banche popolari, è puramente voluto. Ma accanto a questo c'è una consapevolezza, lo ha detto il ministro Padoan spiegando concretamente la situazione del nostro paese e perché il nostro sistema bancario è decisamente più solido di come viene raccontato, che in questi 2 anni e mezzo siamo intervenuti togliendo ai dirigenti pubblici, politici e non territoriali la possibilità di stare dentro le banche popolari nel modo con il quale stanno, ahimè in passato del silenzio di tanta parte dell'opinione pubblica. Siamo intervenuti garantendo delle regole più corrette per tutti. Io credo che ci siano le condizioni perché il tema delle banche, anche grazie al lavoro svolto da Atlante, possa essere nei prossimi mesi affrontato in via definitiva. Io mi auguro che, nel rispetto naturalmente di un ruolo che non è il mio, l'aumento di capitale del Monte dei Paschi di Siena possa essere svolto entro l'anno. Ma siamo... Allora, questo è il commento generale sia di carattere politico sul PIL che sulle banche. Andiamo però, restiamo sul PIL, perché era l'oggetto poi dell'intervento del Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan, il quale ha detto: il PIL è in crescita, questo è il mio commento, un po' tranchant, e chiaramente poi è stato articolato in maniera più estesa. Ha detto: il problema della crescita globale sembra ancora lontano dall'essere risolto, e ha aggiunto Padoan: le cause della bassa crescita sono più profonde e più complesse di quello che possiamo pensare. Siccome le crisi, le ragioni della crisi e della bassa crescita sono profonde e complesse, bisogna non solo usare tutti gli strumenti a disposizione, ma bisogna fare molti più sforzi per usarli in modo coordinato. E coordinato vuol dire 2 cose. Uno, che i vari strumenti di policy devono aiutarsi l'un l'altro. La politica fiscale, la politica monetaria, la politica strutturale si devono disegnare ed implementare in modo tale da sostenersi a vicenda. abbattere le tasse sul lavoro sostiene e amplifica i benefici di una riforma del mercato del lavoro, tanto per citare un esempio specifico del caso italiano. Ma c'è anche una seconda dimensione di coordinamento, ovvia, che è quella che i paesi devono tra di loro coordinarsi, non per fare le stesse cose, ma per tener conto in quello che fanno delle conseguenze sugli altri paesi, in modo tale che queste conseguenze siano positive. Quindi le soluzioni nazionali, per quanto adottate da paesi grandi e potenti, hanno dei limiti e sono meno efficaci rispetto alle soluzioni coordinate. Allora, così il Ministro all'economia sul PIL. Devo rispondere già a alcuni messaggi sia su WhatsApp che su SMS. Guardate, alcuni mi scrivono: lo sapevamo, scoprite l'acqua calda, che l'economia cresce poco. Noi aspettiamo l'Istat da sempre. Dopodiché che tutti gli indicatori arrivati negli ultimi giorni fossero indicatori a essere buoni, deludenti, lo abbiamo detto in tutti i modi possibili. Poi c'è chi già lo sapeva, benissimo, che si iscriva per partecipare al Nobel dell'economia. Una cosa devo dire però, attenzione, tutto va bene anche criticare il governo quando pecca di ottimismo, l'abbiamo fatto, quando sembra, diciamo, non riconoscere alcune realtà, quando deve correggere le dichiarazioni, tutto quello che volete. L'unica cosa che io trovo veramente incomprensibile è chi festeggia se il PIL va male, perché mi ricordo molto il marito, diciamo, cornuto che compie un'operazione leggermente di masochismo, evirando, diciamo, gli organi riproduttivi. Cioè, se il PIL va male è un danno per tutti. Poi uno può dare la colpa al governo, e ci mancherebbe, può dare la colpa alle imprese, ai sindacati, alle mancate riforme, alla politica, alla situazione internazionale. Lì, diciamo, è un problema di opinioni. Ma festeggiare perché, te l'avevo detto, il PIL va male, va tutto male, tanto meglio, tanto peggio, mi sembra un'operazione masochistica. Comunque, torniamo all'intervento di Padoan. Ha detto, ha già anticipato alcuni elementi sulla legge di stabilità, e ha detto che la legge di bilancio, come si chiama adesso la legge di stabilità, prima si chiamava legge finanziaria, poi si è chiamata legge di stabilità, adesso si chiama legge di bilancio, cambia poco, è sempre la finanziaria. E ha detto Padoan: il dato del PIL trimestrale è piatto, ma quello tendenziale, cioè rispetto a un anno prima, è di crescita, non siamo soddisfatti, ecco perché inseriremo nella legge di stabilità, nella legge di bilancio, scusate, misure soprattutto per la crescita. È una legge di bilancio che conferma i principi della politica economica fin qui seguiti dal governo, e cioè il contemporaneo perseguire di due obiettivi che si rafforzano: il consolidamento della finanza pubblica e il sostegno alla crescita. Ciò pur in un contesto macroeconomico in cui le risorse disponibili sono minori, il cosiddetto spazio fiscale si è ridotto, sia per ragioni esogene, perché l'inflazione è calata e quindi questo ha un vincolo soprattutto in termini di velocità di riduzione del debito, sia per impegni presi dal governo di continuare nel consolidamento della finanza pubblica, il deficit rispetto al PIL continuerà a scendere. Pur in questo contesto ci saranno risorse disponibili, anche perché ricordo che gran parte delle risorse che dovranno essere mobilizzate nella legge di bilancio, attorno a 15 miliardi di euro, saranno dedicate alla rimozione delle cosiddette clausole di salvaguardia. E questo, secondo molte analisi, questa dichiarazione del Ministro porta a dire che vi sarà una manovra e un intervento sulla parte, diciamo, di carattere fiscale su imprese e lavoratori, da quello che abbiamo capito IRPEF, forse anche la parte delle imprese. Nel frattempo, e ne parleremo fra pochi minuti anche dopo la pausa con i nostri primi ospiti, ci sono state varie dichiarazioni, penso una su tutte quella del presidente dell'ENI Marcegaglia, che poco fa ha detto c'è un segno più davanti al PIL, però è troppo poco, quindi un dato positivo ma non sufficiente. Andiamo intanto però sulla chiusura di borsa, nel senso che la chiusura è in rialzo alla fine dell'1,36%, con Campari che si conferma miglior titolo, +3%, seguita da Mediaset +2,60%, Azimut +2,5%, come Intesa San Paolo ed Enel, il 2,30% rialzo del Banco Popolare, il 2,16% dell'Eni, il 2% di Mediobanca. Mi chiedete dell'euro, l'euro è a quota 1,15 nei confronti del dollaro. Chi va male oggi? Solo un titolo, ST Microelectronics, poi lo commenteremo. Chiaramente ST Microelectronics soffre di un giudizio di Merrill Lynch, era debole ed è debole anche Fiat Chrysler, -1%, lì c'è il tema anche della denuncia arrivata dalla Germania, nonostante le buone immatricolazioni. Su Mediaset il mercato punta anche di nuovo all'ipotesi di un nuovo partner per Mediaset Premium. Allora, 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Andiamo adesso su Metro Pubblicità, poi ascoltiamo un altro, l'ultimo intervento che abbiamo selezionato del ministro dell'economia Padoan, e iniziamo a ragionare con i nostri ospiti. Focus Economia. Le risorse che residueranno saranno dedicate a un capitolo soprattutto, un capitolo che possiamo chiamare crescita e competitività e produttività, che sarà dedicato con misure peraltro ancora da definire, ma che sono nel dibattito in parte pubblico, in parte all'interno del governo, risorse che sosterranno ulteriormente gli investimenti, saranno di incentivo alla ricerca della produttività, saranno di sostegno alla riduzione delle tasse che è già incorporata nel bilancio. Vi ricordo che la diminuzione dell'IRES per il 17 è già contenuta nella legge di stabilità precedente, quindi verrà confermata. Quindi il secondo principio è uso selettivo, motivato, mirato delle risorse a sostegno della crescita e della produttività e della competitività. Allora, vedremo poi come si articolerà questa manovra finanziaria. Da un lato il perimetro è già in discussione adesso, ma gli interventi specifici, come ricordava anche poco fa il ministro Padoan, andranno chiariti col tempo. Indubbiamente la parte centrale sarà, come già ricordavamo ieri, la parte di carattere fiscale. Difficile capire l'ammontare della parte fiscale e se andrà tutta, diciamo, sul cosetta IRPEF, tasse per chi lavora e riduzione delle tasse per chi lavora e per chi il lavoro lo dà. Vorrei iniziare però a ragionare di quanto abbiamo ascoltato, di quanto hanno dichiarato il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'Economia questa mattina, alla luce anche dei dati sul PIL italiano, che, ripetiamolo, purtroppo hanno confermato, contrariamente a quanto sperato, a mio avviso in maniera un po' inopinata e inopportuna, dal Ministero dell'Economia due giorni fa, che potesse essere uno 0,1. È zero, lo ricordiamo, come già indicato dalle stime dello scorso 12 agosto, e devo dire che abbiamo usato l'espressione tenerezza, c'è chi ha detto patetico, insomma anche un ministero che si aggrappa a uno 0,1 per dire che la situazione è diversa, segnala, per essere seri, la difficoltà e il rischio profondo di una crescita così modesta da sembrare quasi una stagnazione. Ne parliamo con un ospite che ciclicamente abbiamo quando siamo qui in diretta da Chernobyl. Mi riferisco al fondatore, nonché proprietario e, diciamo, gestore, anche se sempre direttamente in prima persona, dei fondi Algebris, Davide Serra. Buonasera. Buonasera. Allora Serra, ragioniamo di carattere su carattere macroeconomico, poi andiamo anche alle borse e mi interessa in particolar modo il settore bancario, perché lei si espose a suo tempo, se non ricordo male, proprio sul Monte dei Paschi di Siena. Insomma, un po' di delusione c'è, va detto però per essere seri che non sarebbe cambiato molto se avessimo fatto 0,1 invece che 0. Assolutamente, lo dice la matematica, non cambia niente, 0,0,1 non vuol dire nulla. Quindi il vero tema è... continuiamo a fare riforme, ci sono investimenti, si creano posti di lavoro. Ricordati che nel PIL nel breve è una funzione di 50% del PIL italiano è quasi spesa pubblica. Nella spesa pubblica non possiamo aumentarla, quindi deve ripartire la parte privata. Parte privata vuol dire investimenti, vuol dire consumi, vuol dire esportazioni. in un momento di rallentamento globale col Brexit, capisci che comunque ha rallentato o per il momento ha dato un po' di incertezza in Europa, per non metterci attentati, la realtà che fare 0-0-1 non cambia. Il grande numero è l'Italia, dagli anni, negli ultimi 20 anni, non è mai cresciuta come negli ultimi 2. Questo è il dato di fatto. E abbiamo perso 3 milioni di posti di lavoro in 10 anni e negli ultimi 30 mesi se ne sono creati 600.000. Creare posti di lavoro, quei 600.000 posti di lavoro, vuol dire 600 famiglie che possono consumare, pagare, fare investimenti, andare in vacanza e l'economia riparte. Quindi senza nuovi posti di lavoro l'economia non cresce. Ecco, guardare quello che è successo negli ultimi 2 anni è sicuramente corretto. Lei sa che le arriveranno le accuse di essere, cosa che già lei nota, filorenziano su questo, nel senso che il governo dice attenzione, guardate gli anni, i dati degli ultimi 2 anni, guardate esattamente cosa è successo sui posti di lavoro. Al di là del fatto che uno possa essere d'accordo o meno con il governo, che non è ancora un reato in nessun paese democratico al mondo, noi non vediamo però una contropartita, non vediamo un effetto di questo aumento che c'è stato dei posti di lavoro e anche di una leggera aumento dei consumi. Cioè, poi alla fine ci scontriamo sempre con un PIL che farà 0,6-0,8. No, guarda, io guardo i numeri, sono un investitore. Per 20 anni ho avuto un governo che mi ha distrutto 3 milioni di posti di lavoro e mi ha dato zero crescita. E il governo anche la crisi esterna, diciamo. Sì. Governo, chi ha comandato? E dopodiché arriva un team di governo che mi dà 2 punti di PIL, me ne dà uno tendenziale, mi crea 600.000 posti di lavoro, questo è solo positivo. Gli investimenti esteri in Italia hanno 12 miliardi, oggi sono 70 miliardi. Il numero di auto prodotte in Italia è più che triplicato. C'erano 12 miliardi di mutui dato all'anno, oggi siamo a 40 miliardi di mutui. Cioè i numeri, gli indicatori economici di consumo sono solo positivi, l'economia è ripartita. Poi è ovvio che se tu per 20 anni non fai nulla, e noi siamo arrivati a perdere più del 10% del PIL nello shock macroeconomico, come la Spagna dal meno 10 è arrivata al meno 3, noi dal meno 10 siamo al meno 8, quindi cosa vuol dire? Noi eravamo addirittura usciti dall'ultimo gruppo, adesso siamo come nella volata ciclistica, ci siamo riuniti al gruppo. È chiaro che se per 20 anni non pedali, non è che dopo vinci la volata, adesso siamo nel gruppo, il vero tema è continuare a rimanere nel gruppo. E se poi passano le riforme come il Jobs Act, che è stata cruciale, io mi ricordo 3 anni fa ho difeso il Jobs Act dicendo Jobs Act creerà lavoro, grandi casini, la gente dice cosa dite, non è vero. Bene, sono creati dall'Istat 585.000 posti di lavoro. Io mi chiedo, senza Jobs Act cosa sarebbe stato? Però è anche chiaro che dagli ultimi dati che abbiamo visto l'effetto del Jobs Act, più volte l'abbiamo ricordato, non si crea lavoro per legge, casomai si agevolano le condizioni delle assunzioni o migliori contratti, però insomma l'effetto di decontribuzione del Jobs Act sembra terminato, tant'è che il governo starebbe pensando di levare nella prossima manovra finanziaria la decontribuzione to cure e usare questi soldi per altre. Ma non è solo una questione di contribuzione economica, perché la realtà è che l'imprenditoria investe anche in base alla flessibilità. Cioè il Jobs Act cosa ti ha detto? Ti ha detto che tu puoi prendere le persone, se poi l'azienda è in crisi, dice signori andate a casa e vi pago tot in base a quanti anni avete lavorato, che è esattamente il mercato del lavoro inglese. Allora io in Inghilterra quello che vedo è che c'è un mercato molto flessibile, la gente che perde lo ritrova e viceversa. Il tema è c'è sempre una sedia in più a tavola, quindi quando tu ti alzi non devi panicare perché non ritrovi la sedia. In un mercato del lavoro bloccato, l'Italia e così come tutti gli altri mercati bloccati al mondo, cosa succede? Che se tu ti alzi dalla tua sedia non ne ritrovi una. E quindi cosa succede? Questa falsa protezione del posto di lavoro in realtà crea rigidità e non crea posti di lavoro. Ecco, però tornando ai dati macroeconomici, allora diciamo che il Jobs Act in suo effetto positivo l'ha pure avuto. In questo momento però è chiaro che devi riorientare a nostro avviso perlomeno la manovra. Noi abbiamo chiesto, come sulle 24 ore in tempi, non sospetti una manovra più centrata su riduzione di IRPEF e eventualmente anche le tasse sulle imprese e quindi in primo luogo riduzione del cuneo fiscale. Lei che cosa farebbe in questo momento? Perché qualunque sia il giudizio del Jobs Act, il fatto che si sia esaurita la spinta iniziale, cioè che chi doveva utilizzarlo come imprenditore l'ha utilizzato, ormai è sotto gli occhi di tutti. C'è ancora un tema di investimenti inteso a mio avviso come tema di fiducia sul futuro, non di mancanza di liquidità né di tasse di interesse alte, ci mancherebbe. E allora qual è la leva economica? Ma dunque la leva economica secondo me innanzitutto sono, io lo vedo in Inghilterra, se ti abbassano le tasse ciò che conta è tu hai certezza fiscale e legale, sai se fai un investimento, se qualcosa va bene o male, cosa ti succede? Oggi il tema numero uno per cui i grandi capitali e gli imprenditori italiani non investono in Italia è perché non hanno questa certezza. L'agenzia delle entrate ti tassa sì o no e quanto? Non si sa. Bene, la gente non fa l'investimento. Tu l'autorizzazione ce l'hai sì o no e in quanto? Quindi il vero tema è che mettere solo i soldi sul tavolo, se tu non cambi le regole del gioco, non ti serve a nulla. Quindi, motivo per cui, e questo è molto importante a capire la parte degli investitori, perché gli investitori capiscono l'importanza delle riforme costituzionali? Perché la riforma costituzionale è un cambio delle regole del gioco per il paese, non per questo governo, per i prossimi 20-30 anni. E il vero tema è, se tu metti un governo che è responsabile e accountable di quello che dice e fa, e lo può fare, può portarci ad avere le regole per cui, come in Francia, vuoi costruire una casa, in 3 mesi ti dicono sì o no e in 18 la puoi costruire? Perché in Italia devi aspettare 18-24 mesi? Capisci? Quello è tutto e tempo quindi, perso. Se capisco bene, il tema sono le prossime riforme sullo snellimento burocratico, la... Quello è il tema numero uno. Okay. E poi l'abbassamento delle tasse. Io sono per abbassarle fondamentalmente a IRPEF e a chi dà lavoro. Già la decontribuzione dell'IRPEF dall'IRAP è stata importante, cioè togliere l'elemento del costo del lavoro dal calcolo delle aziende è stato importante. Fondamentalmente bisogna aiutare a defiscalizzare il cuneo fiscale. Quindi quello è la manovra, lei dove indirizzerebbe la manovra nei prossimi per il 2017. Ancora due domande rapidissime. L'andamento invece del settore bancario e dei prestiti. Noi c'è chi paventa ormai da mesi il rischio trappola della liquidità. Che penso tolga il sonno a Mario Draghi. Cosa vuol dire? Che lui ha fatto tutto quello che doveva fare, i tassi sono a zero, sotto zero i rendimenti delle obbligazioni nella maggior parte dei paesi dell'area euro, eppure questo non si sta trasferendo, c'è una massa di liquidità che non si sta trasferendo alle imprese. Ora, la vicenda Commerzbank e Deutsche Bank, che commentavamo ieri, dimostra che il problema del consolidamento bancario non è un problema solo italiano, perché se i due colossi tedeschi devono mettersi assieme, qualche problema c'hanno anche loro, ma noi abbiamo un problema. E c'è chi dice, attenzione, la zavorra degli NPL, dei non performing loans, dei crediti inesigibili, è quello che blocca il trasferimento, diciamo, di liquidità alle imprese. Come se ne esce? Anche perché lei su Monte dei Paschi si è esposto moltissimo. Sì. Scommettendo, diciamo, che immagino avrebbe avuto un altro corso l'andamento del titolo e della banca nel suo complesso. Dunque, ci sono, hai posto 3 temi. Tema numero uno, la liquidità. Portare i tassi a zero, se non si investe in attività reali, non rende nulla. Quindi gli investitori che avevano titoli, obbligazioni, hanno fatto un sacco di soldi e questi non stanno poi facendo investimenti reali. Quindi fondamentalmente hai fatto ricchi degli obbligazionisti e nient'altro. Due. I tassi a zero secondo me sono un errore nel lungo termine, perché il concetto è che se tu depositi 100 in banca e te ne danno 99,8 dopo 2 anni, tu smetti di depositare, prendi le banconote e te le tieni in cassaforte. E quindi cosa vuol dire? Rallenti l'economia invece di farla crescere. Terzo tema è il tema degli NPL delle banche. Allora, in Italia, a livello italiano, secondo me, non c'è questo. C'è un tema NPL, semplicemente perché le banche per 8-9 anni hanno fatto la pulizia dello struzzo. Invece di andare a analizzare cosa avevano, iniziare a gestirli, essere proattivi, hanno fatto politica dello struzzo. Dico che tutto va bene, passo la palla al prossimo amministratore delegato. E così facendo ci siamo trovati davvero questo stock enorme. Ora, guardiamo i numeri, hai 200 miliardi di sofferenze, 120 miliardi di accantonamento, quindi hai un cosiddetto, mettiamolo, buco di 80, ma non è un buco perché ci sono garanzie collaterali per 120-130. Ora, tant'è vero che io 3 anni fa sono diventato il primo investitore, in 3 anni siamo diventati i primi investitori in non performing loan backed da real estate. Garantiti dall'immobiliare, hotel e residenze di alta gamma. Abbiamo salvato 3-4 medie banche in Italia che stavano per essere intervenute e noi alla fine in asta insieme ad altri gruppi abbiamo preso parte di questo NPL, quindi abbiamo portato capitale all'Italia. Ora, il tema qual è? È che c'è un problema di concentrazione. Questi 80 miliardi, alcune banche ne avevano una quota troppo alta, caso tipico Veneto, Vicenza e Monte dei Paschi. Grazie al cielo il governo ha fatto la riforma delle banche popolari, altrimenti Vicenza e Veneto non potevano nemmeno fare l'aumento del capitale di Atlante, sarebbero fallite, altro che bail-in, lì andavano in risoluzione, per dire persino il conto corrente, non solo subordinato. Quindi la riforma delle popolari ha permesso di mettere del capitale in Vicenza e Veneto. E se io mi ricordo che Zonin, che faceva precedente delle popolari all'annuncio della riforma, disse questa è una riforma sbagliata, no? Sì, la frase di Zonin si commenta da sola, però adesso lei dove sta investendo, per esempio, per concludere? Perché ho capito il suo tema, ma lei i soldi li metterebbe nel settore bancario, quindi ha prospettive di un miglioramento del settore bancario, di una risoluzione del tema degli NPL? Sì, no? Noi gestiamo 5 miliardi, noi abbiamo 4 miliardi investiti nei subordinati globali, okay? Di cui un 10% in Italia. Quindi chiaramente siamo investiti nelle banche più forti e più solide, fondamentalmente Banca Intesa e Unicredito sui subordinati. Poi abbiamo 500 milioni non performing loan e sono tutti in Italia, tireremo su alto capitale, abbiamo creato un'infrastruttura, abbiamo avvocati, abbiamo IT system e quindi siamo diventati il primo investitore e vediamo che ci sono ritorni. Non è facile, devi fare un sacco di lavoro, devi continuare ad analizzare prestito per prestito, hotel per hotel. Dopodiché hai il terzo tema, che è quello dell'equity delle banche. Sicuramente come asset class è stata quella più massacrata. Fai conto che l'indice bancario europeo è partito nel 91 a 100, oggi sta a 98, okay? Quindi sono passati 27 anni e hai perso il 2%. Ora, secondo me adesso c'è del potenziale e noi siamo investiti attraverso le strategie azionarie, che sono per noi il 10% degli assets. Abbiamo posizione in Intesa, abbiamo comprato nel panico di maggio, giugno e luglio, quindi Banca Intesa, e poi nel sell-off fortissimo di Verona, Milano, abbiamo preso una posizione anche lì. C'è stato un giorno dove crollarono. Ora, chiaramente, come percentuale di esposizione overall l'Italia per noi rimane alta, perché se tu pensi 10% nel credito, 5-10% nell'equity, il titolo potrebbe essere che voi siete esposti perché ci scommettete, perché ci crediamo. Io spero che lei abbia ragione. Grazie comunque a Davide Serra, appunto fondatore, creatore e presidente del fondo Agebis. Grazie. E adesso andiamo sul traffico e anche poi la borsa, chiaramente. Sì, vedo che Serra sta alzando, dico già che come presumibile si è beccato moltissime accuse di essere filo renziano, fratello di Renzi, per carità. Mi sembra che la posizione di Serra adesso, onestamente, verso il governo sia abbastanza chiara, insomma. Appoggia il governo e appoggia Renzi, non è ancora un reato, così come a chi mi scrive, ma fate sentire Sapelli, Seminario, la rivolge alla persona sbagliata, perché Sapelli è nostro ospite frequentemente il venerdì, Seminario è ospite praticamente fisso di Oscar Giannino nei Conti da Belva, quindi mi sembra che l'opinione di economisti molto più scettici e critici sia ampiamente presente in questa radio. Comunque, traffico. Focus Economia. minuti, sorrido perché vedo numerose critiche a quanto detto poco fa Davide Serra, va bene, insomma, le leggiamo e ne prendiamo atto. Allora, la borsa più 1,54%, Milano più 2,30%, Parigi più 1,40%, Francoforte più 2,60%, Londra, il Dow Jones in questo momento più 0,44%, bene Campari più 3,40%, media 7,3%, Intesa San Paolo più 2,90%, Azimut più 2,80%, Banco Popolare più 2,70%, Pop Milano più 2,30% come Enel, Mediobanca più 2% come Eni e Unipolsai, l'1,90% lo guadagna CNH Industrial, l'1,80% il rialzo di Exor, Yux Saint-Aporté più 1,60% come Banca Mediolanum e Terna. Di negativo oggi c'è poco, c'è ST Microelectronics meno 2,70%, Fiat Chrysler meno 0,70%, poi anche Fineco Bank meno 0,36%. Paolo Paronetto, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Vorrei un rapido commento su bancari da un lato e anche Mediaset, per poi parlare invece del sondaggio, visto che poco fa a Davide Serra abbiamo chiesto previsioni sull'andamento economico, lui ha detto io investo sul paese Italia. Voi come sempre, come Radio Cori sulle 24 ore, avete realizzato il sondaggio Assium Forex con gli operatori qui presenti su come vedono le prospettive dei mercati. Però commentiamo prima la borsa, bancari, dicevamo, e ST Microelectronics. Sì, diciamo che Mediaset, scusami. Certo, diciamo che i bancari hanno allungato il passo nel pomeriggio dopo il dato inferiore alle previsioni sul mercato del lavoro americano che almeno come reazione immediata sembra allontanare quantomeno i tempi per la stretta di politica monetaria della Federal Reserve, quindi tutte le borse hanno allungato il passo, in particolare un settore come quello bancario, il migliore Intesa San Paolo più 2,91%, ma gli acquisti sono arrivati in tutta Europa e sotto indice del settore è salito di oltre 2 punti percentuali a livello europeo. Per quanto riguarda Mediaset, il titolo è salito del 3,02% ed era già salito ieri. Il mercato scommette sul possibile arrivo di un nuovo partner per la pay TV premium, finita al centro dello scontro con i francesi di Vivendi, mentre sul fronte opposto del FTSE MIB ST Microelectronics ha perso il 2,69%. Qui il titolo ha scontato il giudizio negativo degli analisti di BofA Merrill Lynch, che hanno tagliato la raccomandazione sulle azioni di ST. E passando, se sei d'accordo, al sondaggio Assium Forex, certo. Diciamo che scende un po' il numero degli ottimisti, ma comunque per l'87% degli operatori nei prossimi mesi la borsa sarà stabile o in rialzo. E nel dettaglio il 46% ritiene che i mercati saliranno, erano il 55% in luglio, mentre un altro 41% in rialzo dal 28% crede che i mercati saranno stabili. Di conseguenza i pessimisti, cioè quelli che credono che le borse scenderanno, scendono al 13% dal 17% di luglio. Quindi diciamo che gli operatori di mercato scommettono su acque abbastanza tranquille per le borse nei prossimi mesi, dopo aver già previsto, ad esempio nei mesi scorsi, che l'impatto della Brexit sarebbe stato tutto sommato limitato sulle oscillazioni delle borse europee. La prospettiva quindi è questa per i prossimi mesi. Allora, su questo, lo dico, quello che si nota dal vostro sondaggio è che la stragrande maggioranza ritiene borse stabili o leggermente in rialzo, nel senso che i due estremi, chi le prevede in calo è sceso appunto al 13%, ma anche chi le prevede in netto rialzo è molto limitata come percentuale, il 6%. Esattamente, sì. Avete fatto anche il sondaggio sul rapporto di cambio euro-dollaro, oggi siamo a quota 1,11, devo dire poco mosso in queste settimane e in questi mesi, se non c'è stata una notizia è proprio quella sui mercati valutari. Però dicevo, il rapporto di cambio euro-dollaro? Come dicevi tu, in queste settimane, diciamo che non, in questi mesi non c'è stata una grossa variazione per quanto riguarda le oscillazioni euro-dollaro, anche nei prossimi mesi, secondo il nostro sondaggio, le oscillazioni saranno tutto sommato limitate, così come quella per quanto riguarda lo spread tra BTP e Bund. E in quest'ultimo, su quest'ultimo fronte, diciamo che il 58% ritiene che il differenziale tra BTP e Bund rimarrà compreso tra i 100 e i 125 punti base, quindi un'oscillazione tutto sommato limitata. E un altro focus che ti segnalo del sondaggio è quello che riguarda il settore bancario. Qui diciamo che le opinioni sono un po' più polarizzate. Il 42% degli operatori ritiene che di fatto la tempesta sia passata e quindi i valori di borsa siano inferiori ai reali valori delle banche, prevede quindi una crescita nei prossimi mesi, mentre il 58%, quindi una percentuale superiore, crede che sia troppo presto per dire che la crisi è superata e prevede ancora difficoltà per le banche. Tornando ai cambi, il 42% vede un euro-dollaro sostanzialmente immutato, mentre per il 45% è ipotizzabile un indebolimento della divisa comune in vista naturalmente del prevista stretta della Fed. Allora, tornando alla borsa, perché ho dimenticato e chiedo venia un titolo che invece mi interessa, Fiat, per il doppio aspetto, dati sulle immatricolazioni, ma anche tardo pomeriggio, la notizia dell'iniziativa tedesca nei confronti anche del gruppo Fiat, sempre in tema di emissioni. Il titolo alla fine ha chiuso debole, meno 0,75%. Sì, proprio il doppio aspetto anche in borsa, il titolo era partito bene sulle scia dei dati sulle immatricolazioni italiane salite più della media del mercato, ma alla fine ha risentito proprio dei timori di una possibile inasprimento delle normative sulle emissioni nocive di gas e ha chiuso in calo dello 0,75%. Come ricordavi tu, ieri il ministro federale dei trasporti tedesco ha avanzato alla Commissione UE contestazioni formali nei confronti dei sistemi di riduzione delle emissioni utilizzate da Fiat e Jeep, quindi ovviamente un tema molto complesso che potrà pesare sul titolo Fiat nei prossimi mesi. Allora andiamo in conclusione con i migliori e peggiori. Vita, società editoriale più 25%, SNAI più 8,40%, Bialetti più 8,30% e RWE più 5,60%. Poi c'è anche Assiteca più 4%, il Sole 24 Ore più 3,90%. Fronte opposto, Accelero meno 3,80%, poca roba devo dire, Clabo meno 3% con cali anche relativamente bassi, Gala meno 3%, Bioera meno 2,90%, ST Microelectronics meno 2,70% e Volkswagen meno 2,20%. Allora, grazie a Paolo Paronetto e colleghi di Radio Cori Il Sole 24 Ore. Adesso ci avviciniamo al GR24, poi torneremo parlare del dato del PIL di oggi. Lo faremo, visto che la componente investimenti, lo ricordo che si fosse appena messo in ascolto, secondo quello che ha riportato l'Instat, è la componente più deludente, nel senso i consumi delle famiglie hanno fatto più 0,1, investimenti della pubblica amministrazione meno 0,2. Volutamente lo faremo con chi deve poi realizzare questi investimenti pubblici, ossia i numeri uno di due grandi gruppi partecipati, quindi dallo Stato, mi riferisco alle Ferrovie dello Stato e all'Enel, per capire quale sia il piano di investimenti di questi due gruppi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. A volte basta accendere la radio per ritrovarsi comodamente seduti al cinema. Sa perché mettono le maschere d'ossigeno sull'aereo? Per poter respirare. L'ossigeno ti fa sballare. Una storia speciale che assomiglia un po' a un film, un po' a un romanzo e un po' a un ricordo personale è qualcosa di unico che può arrivare solamente attraverso la radio. Ehi, bentornato a casa, Vic. Grazie. Che effetto fa la libertà? Piacevole. Sembra niente, ma è proprio così. Audiogrammi Reloaded. Una storia come non l'avete mai ascoltata. Di Paolo Corleoni e Laura Faggin. Sabato alle 15 e domenica alle 23 su Radio 24. E in podcast su radio24.it. Focus Economia. Sette minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni qui dagli studi di Radio 24 al workshop Ambrosetti a Cernobbio. Abbiamo già commentato, lo dico a chi si fosse messo in collegamento ora, il dato sul PIL italiano, deludente, zero, la variazione è pari a zero, il PIL acquisito è un po' meglio del previsto, ma stiamo parlando dello 0,1%, tant'è che lo stesso Presidente del Consiglio, lo abbiamo ascoltato, ha detto sicuramente questo non basta. Tra l'altro devo dire la crescita acquisita era 0,7, si stima per l'anno uno 0,8%, e oltre al commento del Presidente del Consiglio abbiamo ascoltato anche quello del Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan, che ha dato qualche indicazione su quella che sarà, diciamo, la struttura della manovra, la componente fiscale in primis. Adesso parleremo invece della componente che è più mancata a questo PIL e mi riferisco alla parte degli investimenti, sintetizzando: buon bene l'apporto dell'agricoltura più 0,5%, buono l'apporto dei servizi più 0,2%, negativo invece quello dell'industria nella composizione del PIL meno 0,6%. Invece per quello che riguarda il fronte consumi, se le famiglie hanno fatto più 0,1 come consumi, la pubblica amministrazione ha fatto meno 0,3%. Allora, vediamo chi dovrebbe compiere questi investimenti. È qui con noi il numero uno delle Ferrovie dello Stato italiane, che a fine settembre, se non ho capito male, presenterà un piano anche di investimenti sensibile. Ingegnere Renato Mazzoncini, buonasera innanzitutto. Buongiorno a tutti. Un commento sul PIL, poi vediamo al ruolo che hanno le Ferrovie dello Stato. Oggi il Presidente del Consiglio citava proprio il gruppo che lei dirige come un gruppo esempio di innovazione, e voi avete un ruolo, forse dovreste averlo anche più alto, importante negli investimenti di carattere pubblico e di carattere infrastrutturale. Ma prima di tutto un commento complessivo sul dato sul PIL e anche su quanto ascoltato oggi da parte del Governo. Ma allora, il dato sul PIL è un dato oggettivo, non è che ci sia molto da commentare. Certamente il ritardo con cui abbiamo messo in campo in Italia alcune riforme fondamentali a partire dal Job Act o della pubblica amministrazione sono degli elementi che oggi gioca, ma anche tutto sommato gli investimenti, perché in Italia, per esempio, in ferrovia abbiamo fatto investimenti negli ultimi anni importantissimi. L'alta velocità forse è uno dei principali elementi di modernizzazione del paese, ma è anche vero che stiamo parlando di un'infrastruttura che è stata contrattualizzata la prima volta nel 1991, quindi voglio dire, è chiaro che nel momento in cui noi ci mettiamo 30 anni a realizzare le opere, l'impatto sul PIL poi è questo. Certamente Ferrovie dello Stato può giocare un ruolo fondamentale per due ragioni. Credo che degli ingredienti importanti per far crescere il PIL di questo paese siano, da un lato, un po' di ottimismo, cioè il fatto di crederci, dall'altro lato un po' di visione del futuro e capire come fare ad agganciare le innovazioni che stanno arrivando. La digitalizzazione impatta su tutto e bisogna essere capaci, per fare sviluppo e fare PIL, di agganciarla nel modo giusto. Nell'ambito della mobilità abbiamo moltissimo da fare. E a fine settembre presenteremo il piano industriale di Ferrovie dello Stato, e sarà un piano, come ha accennato anche il presidente Renzi nel suo intervento, in cui Ferrovie si candida a essere un'azienda di mobilità, non un'azienda di trasporto ferroviario. C'è una differenza gigantesca, perché oggi la gente è abituata a viaggiare door to door, è ovvio, ed è abituata ad avere strumenti informatici, in particolare piattaforme, che gli consentono di costruire questo viaggio, mentre noi oggi ci troviamo in una situazione nel paese in cui le varie imprese di trasporto non sono integrate tra di loro, e quindi mentre uno con l'automobile privata riesce a fare il door to door davvero, con il mezzo collettivo la costruzione del viaggio è molto più complicata. Questo è già l'antipasto di quello che sarà la vostra fusione? Questo è l'antipasto di quello che sarà la nostra strategia, perché dal nostro punto di vista... Che prevede anche però la fusione con ANAS. Questo prevede anche la fusione con ANAS, ma questo perché le infrastrutture, qui si apre un altro capitolo ed è forse il capitolo su cui Ferrovie può contribuire di più al PIL, le infrastrutture di mobilità oggi sono due, sono strade e ferrovie, ma sono sempre infrastrutture di mobilità e bisogna riuscire a vederle e progettarle in maniera integrata. Oggi Ferrovie dello Stato è la prima azienda del paese per investimenti. Nel 2016 stiamo consuntivando 6,2 miliardi di euro di investimenti e abbiamo un piano industriale che prevede che questi investimenti crescano ulteriormente. Questo è chiaro che sono una leva incredibile di PIL, sia perché durante la realizzazione delle infrastrutture genera lavoro, evidentemente, ma sia perché realizzando infrastrutture si modernizza il paese nel settore della mobilità, che ormai tutti gli analisti riconoscono essere uno degli elementi fondamentali di competitività del paese. Allora, nel concludere, non voglio che lei ci sveli il piano di fine settembre, anche perché magari l'arriveremo ospite e ci mancherebbe, però se può darci qualche spunto significativo, visto che lei ha citato cifre molto importanti sul fronte degli investimenti. Direi che i pilastri fondamentali del piano industriale saranno mobilità passeggeri integrata, vuol dire che Ferrovie si occupa di tutto. Se qualcuno fa bene il proprio mestiere, se il car sharing è gestito bene, il bike sharing è gestito bene o i taxi, se sono gestiti bene, li gestiscano, non è un problema, non vogliamo occuparci di tutto. Ma qualora delle componenti del sistema di mobilità, per esempio una buona parte del TPL, quindi trasporto su autobus nelle nostre città, è gestito in maniera inefficiente, noi possiamo essere degli ottimi partner e ci candidiamo per farlo. Quindi, come dire, vogliamo essere il punto di accesso a un sistema di mobilità integrato, siamo disponibili a essere partner di tutti i soggetti che possono beneficiare da una relazione con noi per efficientarsi, quelli che sono già efficienti vanno bene. Non temete di diventare l'IRI della mobilità italiana, cioè la partecipazione pubblica che entra anche nelle controllate locali o nel trasporto locale, o piuttosto che quello modale integrato? No, perché il ragionamento è esattamente l'opposto, cioè noi abbiamo bisogno che i regolatori, che sono gli enti locali, facciano i regolatori e non facciano i regolati. Quindi noi vogliamo essere un'azienda industriale regolata da enti locali. Quindi in questo momento uno dei problemi grossi che abbiamo in Italia è che i regolatori, quindi comuni, province, regioni, sono sia regolatori che regolati. Quindi voglio dire, hanno le municipalizzate, per far capire. Le ex municipalizzate. Non è che abbiamo molte alternative oggi. L'alternativa per riuscire a far funzionare in maniera efficiente il sistema è che i regolatori facciano il loro mestiere e che ci sia qualcun altro che dal punto di vista industriale fa questo. Noi non vogliamo essere gli unici, crediamo nella concorrenza e altri soggetti si facciano sotto. Purtroppo in Italia la chiusura completa che c'è stata in tutti questi anni sul trasporto pubblico locale non ha generato dei player che oggi siano pronti, quindi ci sono player stranieri che entreranno nel nostro mercato. Ci siamo noi e ci sono pochi altri soggetti che oggi si giocheranno la partita. Allora, Giuliano Mazzoncini, non le voglio chiedere altro perché so che poi andremo a girare attorno alla notizia e noi di notizie ci occupiamo. Aspettiamo fine settembre, ho capito, diciamo, l'impianto generale, però lei mi dia la conferma che a fine settembre poi verrà a spiegarci nel dettaglio e anche con le obiezioni che noi dovremo rilevare appena sarà noto e sarà pubblico. Volentieri, a fine settembre illustreremo il piano, probabilmente sarete anche voi lì a sentirlo. Poi verrò a spiegarcelo nel dettaglio. Volentieri. Grazie anche al numero uno delle ferrovie dello Stato italiane, Ingegnere Mazzoncini. Arrivederci. Allora, andiamo sul traffico, 349-238-6666 per WhatsApp e anche SMS, poi la posta, come sempre, l'indirizzo di Focus Economia è sul sito di Radio 24, traffico e poi ultima parte del programma, sempre sul tema del PIL e degli investimenti e dei contributi che possono dare le partecipate, i grandi gruppi partecipati o in alcuni casi controllati dallo Stato. Focus Economia. Minuti, ultima parte di Focus Economia. Come dicevamo e come già abbiamo chiesto al numero uno delle ferrovie dello Stato, continuiamo a cercare di capire tra chi è presente qui al workshop Ambrosetti concretamente poi quali possono essere i piani di investimento. Manca l'appello, la componente investimenti della pubblica amministrazione, e dopo aver parlato con le ferrovie dello Stato ringrazio per averci raggiunto nei nostri studi qui a Radio 24 a Cernobbio l'amministratore delegato del gruppo Enel, Francesco Starace. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Come prima con Mazzoncini, un commento sul PIL, è la notizia di oggi, è la notizia più forte anche vista la presenza questa mattina del Presidente del Consiglio e del Ministro dell'Economia. Deluso, si aspettava di più, ma soprattutto cosa vuol dire per chi poi è operatore di mercato? Non ho mai una sensazione di quello che farà il PIL, perché si parla sempre di decimali avanti e indietro. L'importante è che questo PIL cominci a crescere e continui a farlo. A me importa più che altro la direzione in cui sta andando piuttosto che il valore assoluto di questo PIL. Quindi, ed è una direzione di rallentamento o di moderata crescita? È una moderata crescita che credo ci accompagnerà sempre, cioè non credo che questo sia un PIL destinato a fare salti. Credo che noi dobbiamo abituarci al fatto che il nostro PIL continuerà a crescere con un passo più lento di quello che forse pensavamo, e questo probabilmente per l'attrito, di stacco e per la fatica con la quale le riforme che si sono fatte un po' di ritardo mettono a entrare. Ma lei, diciamo, da italiano, da manager, poi parliamo adesso dell'Enel, qualche idea di cosa non stia ripartendo, se la sarà fatta, immagino? Ma ci sono parti dell'Italia che sono partite da tanto tempo e altre meno, e credo dipenda molto, secondo me, almeno dal mio piccolo punto di osservazione, dalla velocità con la quale i segmenti si muovono. Non ho nient'altro da dire. Tra l'altro l'Italia è un paese che dipende molto dall'esportazione, e quindi certi segmenti sono partiti prima anche perché l'esportazione in certi paesi è partita prima. Non ho altro da aggiungere su questo. Ecco, invece veniamo al ruolo che devono avere i grandi gruppi. Allora, gli investimenti li fanno i grandi gruppi di carattere privato, ma anche i grandi gruppi di carattere pubblico. Lì è più facile, tra virgolette, non perché sia in una logica fuori mercato, ma è più facile chiedere a chi gestisce un gruppo come Enel che piano di investimenti avete da qua al 2016, a fine 2016 e soprattutto in prospettiva nel 2017, e quanta parte di questi investimenti sarà dedicata all'Italia e quanta invece, giustamente perché siete un soggetto che deve operare secondo logiche di mercato e di utile invece dedicato all'estero. Guardi, noi investiamo in crescita, perché sono questi gli investimenti di cui parliamo, e poi in manutenzione, no? Che anche questi sono investimenti che hanno ricadute sul territorio. E mediamente noi investiamo in un periodo di 4 anni qualcosa intorno ai 32 miliardi di euro. Faccio conto che per la crescita di questi 32, 17 sono destinati alla crescita. Questo è in tutto il mondo e parliamo di 4 anni. Quindi mal contati sono qualcosa intorno a 8 miliardi più o meno all'anno. 8 miliardi, allora 7 e mezzo all'anno. E se noi prendiamo il caso Italia, noi in Italia abbiamo, sorprendentemente per alcuni, un piano di investimento robusto, perché abbiamo un piano di sostituzione dei contatori digitali che ci occuperà i prossimi 4 anni per un valore di circa 2 miliardi e mezzo. Abbiamo un piano di investimenti che abbiamo messo in campo insieme ad altri sulla banda larga, che cuba tutto sommato qualcosa dello stesso ordine di grandezza. Poi dipenderà molto da quali gare riusciremo a vincere, ma mediamente questo ci pensiamo che sarà la dimensione dello sforzo. E poi abbiamo calcolato malamente qualcosa tra i 3,5 e 4 sul mondo della generazione di energia, sia nell'attività di decommissioning di impianti, sia in termini di investimenti per l'attività di crescita sulle rinnovabili. Questo nell'arco di 4 anni. Poi c'è tutto il fronte anche, tra virgolette, di diversificazione della vostra attività, e lì sappiamo che c'è tutto l'aspetto che riguarda il fronte telecomunicazioni. Alcuni ascoltatori ci chiedono anche invece di un esperimento di cui conosco pochissimo, quindi lo cito testualmente: un vostro esperimento in Danimarca per la reimmissione di energia elettrica nella rete tramite autovetture. Mi ricollego in qualche modo a quanto citava prima Mazzoncini sul nuovo ruolo che adesso lo scopriamo col piano industriale di fine settembre, che le FS vogliono avere come, diciamo, soggetto non solo sulla parte ferroviaria ma sulla mobilità in senso più lato. E quindi telecomunicazioni da un lato e la banda, e invece anche un ruolo che immagino non essere predominante in questo momento, ma sul fronte mobilità. Noi siamo convinti di una cosa, che l'energia elettrica, la diffusione dell'energia elettrica in tutte le parti dell'utilizzo dell'energia è la risposta alla necessità di combattere il cambio climatico, perché è possibile decarbonizzare completamente la produzione di energia elettrica, non e il resto. Quindi tutto quello che si sposta, tutti i nostri consumi energetici che spostiamo sul vettore elettrico automaticamente sono possibilmente decarbonizzati in toto. Quindi noi stiamo spingendo molto sull'auto elettrica, e l'esperimento che lei ha appena menzionato in Danimarca. In realtà i miei ascoltatori, io lo conosco poco. Per È molto interessante. Noi diciamo, che cos'è una macchina elettrica? È una batteria su ruote, e se noi calcoliamo quanto tempo uno passa nella sua macchina, mediamente noi la guidiamo 1.000-1.500 ore all'anno, tutto il resto del tempo la nostra macchina sta lì seduta sulle sue routine ad aspettarci. E noi pensiamo che questa batteria che sta ferma può essere invece utile, può essere usata per caricarla e scaricarla, rilasciare e rimettere energia nella rete a seconda delle necessità del momento. Ed è questo l'esperimento che stiamo in questo momento compiendo in Danimarca sulla rete danese. Ma perché la rete danese, non quella italiana? Perché la rete danese, prima di tutto, ha un sistema regolatorio che permette di farlo, e secondo, ci hanno chiesto di farlo perché hanno una difficoltà di gestione della rete molto maggiore di quello che è la rete italiana in questo momento. Ricordo che la rete danese, per esempio, non ha pompaggi e poca capacità di modulazione. L'Italia da questo punto di vista è più avanti, ma è solo una questione di tempo, la cosa succederà anche in Italia. Si tratta naturalmente di adeguare il sistema regolatorio italiano a questa possibilità. E il fronte telecomunicazioni invece? La banda larga è un investimento apparsi, importante, non lo dico io, ma siete apparsi come, diciamo, l'alternativa al privato telecom scelta dal governo. Questo è un po' un mito che va sfatato, perché in realtà il governo non ha scelto, siamo noi che abbiamo deciso di farlo, perché abbiamo visto un grande spazio interessante lasciato vuoto su cui metterci a lavorare, e devo dire con retrospettiva lo rifaremmo sicuramente, cioè è rimasto un grande spazio, e su questo ripeto, noi investiamo in una infrastruttura a banda larga, quindi fibra ottica nelle case, non ci mettiamo a fare il servizio telefonico che in questo momento è in in mano salda di tanti operatori, tutti molto bravi. Senta, però questo cosa vuol dire? Che l'Enel che lei guida sta cambiando pelle, oppure si tratta di una diversificazione? Perché questo riguarda anche poi il tema che abbiamo affrontato prima degli investimenti. È una diversificazione infrastrutturale, però è una diversificazione strutturale con delle possibili evoluzioni nel futuro. Le aziende cambiano pelle nel tempo, non cambiano pelle nelle giornate. E credo che procedendo su questa strada troveremo, dopo aver cablato molte case, dopo aver cablato molte città, probabilmente delle possibilità di utilizzo di questa stessa infrastruttura in tanti altri modi che oggi non riusciamo a vedere. Ancora due domande. Gli investimenti all'estero, invece, perché noi ci siamo concentrati giustamente sulla componente italiana per, alla luce della notizia di oggi del PIL, ma voi nel passato avete fatto una grossa campagna di acquisti all'estero. Certo. L'estero resta, e in che proporzione, diciamo così, fondamentale per i vostri investimenti? Alla fine di quest'anno, cioè a metà di quest'anno, la regola è quella del 60-40. Vale in tutto, abbiamo 60% di dipendenti all'estero, 40% di dipendenti in Italia. Il risultato, l'EBITDA, è al 60% all'estero, al 40% in Italia. Gli investimenti più o meno seguono. E quindi in questo momento la nostra crescita è più all'estero che in Italia, perché d'altronde il mondo contro l'Italia vince sempre, è molto più grande. E sull'Italia, se le dovesse, visto che siamo in conclusione, citare l'investimento più interessante a breve, cioè quello che può avere una ricaduta, quindi ritorno da dove eravamo partiti, una ricaduta ciclica, prociclica nei confronti dei consumi, quindi del PIL complessivo? Direi senz'altro l'investimento, il cambio dei 33 milioni di contatori digitali. È un prodotto italiano, tutto, il lavoro si svolge tutto in Italia, ed è completamente spalmato in 4 anni, quindi è un ritorno che vedrà tra l'altro impegnate una forza lavoro che a regime sarà intorno alle 20-30 mila persone. Partirete prima dove? Siete già partiti, ma c'è una logica geografica o invece di PIL pro capite o di densità abitativa? No, è una logica puramente geografica, quindi si parte nelle città più facilmente credibili e poi pian piano si procede sulle campagne, ma è una questione soltanto di fare presto a coprire l'80% della popolazione, come abbiamo fatto 15 anni fa. Allora, grazie, e vedremo poi, continueremo a tenere monitorata anche l'Enel, perché questo è il nostro compito, voi avete i contatori, noi monitoriamo in altro modo. Grazie all'amministratore delegato dell'Enel, Francesco Staracci. Grazie. Andiamo in conclusione, a me non resta che ringraziare come sempre Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, Filippo Reggi per l'assistenza qui a Cernobbio e Davide Cioccia per l'assistenza di bassa frequenza. Ci risentiamo lunedì, tutta la programmazione e quindi anche Focus Economia torna a livello regolare. Intanto da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata e di un buon fine settimana, soprattutto a partire da chi dovrà passarlo lavorando. Radio 24. La passione si sente.